I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Ci siamo lasciati alle spalle una settimana in cui la parola d'ordine è stata decisamente volatilità. Abbiamo avuto giornate estremamente positive, in particolar modo quella di giovedì in concomitanza con la riunione della Banca Centrale Europea. In quell'occasione Mario Draghi ha rivisto al ribasso le stime di crescita e di inflazione dell'economia dell'Eurozona, aprendo ancora una volta la porta ad ulteriori stimoli monetari necessari a sostenere l'economia e i prezzi. Draghi ha parlato di un'azione più incisiva se necessario, continuando magari a rafforzare il quantitative easing, cioè il piano di acquisti mensili di titoli di Stato. Già solo l'annuncio ha avuto l'effetto di portare l'euro sotto quota 1,12 rispetto al dollaro. Venerdì poi i riflettori si sono spostati a Wall Street e al dato sulla disoccupazione di agosto, che è stato letto in chiaroscuro. Il tasso è sceso al 5,1%, ma i posti di lavoro creati sono stati meno del previsto, e che questo ha mandato in profondo rosso i mercati. Perché? Perché da un lato c'è l'aumento della probabilità che la Federal Reserve rinvii la stretta monetaria annunciata da tempo, ma dall'altra parte si sono riaffacciate le preoccupazioni sulle prospettive di crescita dell'economia statunitense. Wall Street, con la giornata di venerdì, ha chiuso, archiviato la sua peggior settimana del 2015. A Piazza Affari non ci sono stati casi particolari che hanno movimentato la settimana, hanno sofferto tutti i titoli bancari molto condizionati dalle politiche monetarie. Unicredit ha fatto parlare di sé perché il gruppo sembrerebbe pronto ad un maxi taglio di forza lavoro, circostanza smentita dal gruppo. In forte sofferenza poi i titoli del lusso, soprattutto tutti i gruppi con larga presenza sui mercati esteri, molto pressati dal nuovo rallentamento economico globale. Prima di concludere, un'occhiata ai temi su cui punteremo i riflettori questa settimana. Oggi è chiusa la borsa americana per il Labor Day. Stamattina è stato diffuso un importante dato cinese. La Cina ha rivisto al ribasso il PIL del 2014 al 7,3% dal precedente 7,4%. Dall'Europa avremo il PIL del vecchio continente del secondo trimestre, la riunione della Banca Centrale di Inghilterra, dall'Italia la produzione industriale. Venerdì prossimo abbiamo la riunione di Eurogruppo ed Ecofin e l'inflazione americana. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto che potenzialmente è destinato ad avere un impatto importante su tutti i cittadini, e purtroppo sono tanti, sono numerosi, che si trovano ad avere a che fare con Equitalia, la società pubblica per la riscossione delle cartelle esattoriali, debiti fiscali, multe non pagate e così via. Vediamo in dettaglio le principali novità che scatteranno quando questo decreto entrerà in vigore. Per prima cosa viene tagliato un costo molto pesante che è a carico dei cittadini. Si tratta dell'aggio, ovvero della percentuale sul valore della cartella, che rappresenta una sorta di compenso per l'attività di riscossione. Questa voce, che oggi pesa per l'8% sulle somme dovute, scenderà al 3% se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della cartella, o al 6% per chi pagherà dopo i 60 giorni. Ci sono altre novità, per esempio sarà più facile effettuare pagamenti a rate anche attraverso la domiciliazione sul conto corrente, e per chi dovesse saltare alcuni pagamenti mensili, cosa che attualmente fa decadere dalla possibilità del pagamento a rate, sarà più facile ottenere un nuovo piano di dilazione. Ecco, la filosofia di tutto però è che, dopo le tante polemiche sul passato e sui metodi a volte un po' ruvidi di Equitalia, ora il tentativo è di rendere un po' meno arcigna, un po' meno soffocante l'attività di riscossione delle tasse, delle multe e dei contributi non pagati. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.